America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Beh, avete sentito, musica sacra, chiaramente siamo in chiesa, siamo a St. John's the Divine, la più grande cattedrale gotica al mondo qui a New York, una benedizione. Beh, voi direte una benedizione, beh, le conosciamo, ce ne sono parecchie anche in Italia, ma non così, perché questa benedizione che voi avete appena ascoltato è una benedizione per i ciclisti e per le loro biciclette. Centinaia di ciclisti arrivano una volta all'anno in primavera in chiesa, in questa enorme cattedrale, entrano con queste biciclette, sono tutti con le loro tute da ginnastica, si mettono in cerchio e ricevono la benedizione. E perché? Beh, andare in bicicletta a New York, dicono, è alquanto pericoloso. In effetti lo è, però c'è stata una manifestazione straordinaria, devo dire sicura, perché avevano bloccato tutte le strade di Manhattan e pensate, c'è stata questa Five Borough, anzi la Gran Fondo Giro d'Italia Five Borough, perché per la prima volta questa manifestazione, che è un grande giro, una grande festa popolare, pensate 30.000 ciclisti, biciclette che partecipano a questa maratona del ciclismo, perché si va attraverso i 5 borghi, ecco, quest'anno per la prima volta ha un marchio italiano, cioè il marchio Gran Fondo Giro d'Italia Five Borough, un evento che rientra tra l'altro nelle manifestazioni per l'anno della cultura italiana negli Stati Uniti. Vi ho detto 30.000 partecipanti, però ci sono 1.200 che partono davanti a questo gruppo di 30.000 con una maglia con un taglio molto italiano, colori rosa, aperto questo gruppo dal nostro console generale a New York, Natalia Quintavalle. Allora, tutto questo per dirvi che cosa? Che in America c'è una grande storia d'amore tra la bicicletta e la popolazione. Pensate che ci sono 57 milioni di americani, quasi il 30% della popolazione, che hanno una bicicletta e la usano regolarmente, e dunque anche un forte interesse, devo dire, dei nostri produttori italiani. Ai microfoni di America 24, Matteo Gerevini, un italiano che ha organizzato molti eventi ciclistici qua in America. Buongiorno Matteo. Buongiorno Mario. Ci racconti questa America del ciclismo? L'America ha sempre avuto un grande amore per la bicicletta, non solo come mezzo di trasporto, ma anche come mezzo di divertimento. E la cosa speciale è che l'amore della bicicletta degli americani è verso la bicicletta e verso l'Italia. Ed è l'unico forse sport che in America viene visto come sport prettamente italiano. È per questo infatti che qualche anno fa abbiamo iniziato a organizzare delle Gran Fondo, cioè delle manifestazioni amatoriali di ciclismo qua in America, col taglio prettamente italiano, col nome Gran Fondo e con tutta una serie di iniziative legate al Made in Italy, portando proprio la cultura del ciclismo italiano in America. Bene, il Gran Fondo è diventato Giro d'Italia Five Borough, cioè questa manifestazione ciclistica che credo che sia la più grande del mondo, 30.000 partecipanti, Manhattan tappezzata da ciclisti che a un certo punto sono talmente assiepati che devono un po', come dire, camminare, e davanti però in testa c'erano 1.000 ciclisti che indossavano le maglie italiane. Ecco, ci racconti com'è nata questa idea, perché lei è stato uno di quelli che l'ha pensata, l'ha organizzata. L'idea è nata proprio al fatto che la Gran Fondo come cultura italiana, come evento all'italiana, si stava diffondendo molto in America, per cui ho avuto modo di parlare con gli organizzatori della Five Borough e quindi di aggiungere un allure italiano a questo evento, portando davanti a tutti più di 1.200, che poi è quello il numero effettivo dei cicloamatori, vestiti tutti con la stessa maglia, per pedalare sulle strade di New York. E questo ovviamente sotto il nome anche Gran Fondo Giro d'Italia, che è un nuovo circuito di eventi che è partito qui in America e che ha permesso di fare qualcosa, come si è visto, di assolutamente unico, quindi di vedere migliaia di ciclisti lungo le strade di Manhattan che percorrevano completamente chiuso al traffico, con tutti con questa maglia simile, uguale, ed è stata veramente un'esperienza unica, soprattutto considerando che si pedalava a New York. Vedo che in questo momento lei è per strada, ma lo sa che ci sono 576 miglia di piste ciclabili in città a New York? Lo sapeva? No, questo non lo sapevo sinceramente. Ecco, ma quanti ciclisti vede? Dov'è lei adesso in questo momento? Adesso sulla quinta strada proprio. Poi sicuramente vedrà sulla quinta strada quelli che sfrecciano, che sono i messenger, i ciclisti, esatto, che portano avanti e indietro i messaggi, no? Perché sono una grande caratteristica della città. Ne ha visto qualcuno? Ne ho visti parecchi. Ogni volta che li vedo mi spavento, perché vanno senza cognizione, completamente in mezzo al traffico, e per noi è una cosa abbastanza inconcepibile. E anche per questo ci vuole la benedizione nella cattedrale. Grazie, a presto Matteo. Grazie a lei, arrivederci. grande festa popolare con la bandiera italiana. E tu con me, i microfoni di America 24, Natalia Quintavalle, console generale d'Italia a New York. Buongiorno console. Buongiorno a lei. Beh, intanto devo dirle, un po' di invidia io ce l'ho, perché lei è partita con la maglietta numero uno davanti a questa folla di 30.000, 31.000 ciclisti, corridori. Ma insomma, come si sentiva con questa maglietta numero uno a guidare questa grande competizione americana? Una grandissima soddisfazione, devo dire, e anche, sì, ho avvertito l'invidia di molte altre persone, dai miei amici d'infanzia fino a tutti quelli che si trovavano a New York in questo periodo. Immaginiamo adesso tutti coloro che la sentono in Italia, i microfoni di America 24, diranno, ma come, numero uno, anch'io. Sì, è stata veramente una sensazione divertentissima quella di partire davanti a tutti, insieme a fianco con Gianni Bugno. È veramente, chi me l'avrebbe mai detto, mio padre che era un appassionato di ciclismo sarebbe veramente commosso all'idea di vedermi qua. È stata veramente una cosa molto bella ed è una cosa che testimonia il grandissimo affetto, la grandissima passione degli italiani per il ciclismo, per lo sport, ma anche la grandissima attenzione degli americani per lo sport italiano e per il ciclismo in particolare. Ecco, a un certo punto si era detto, si era cercato di organizzare un vero e proprio Giro d'Italia con una tappa che partisse qui in America. Resta aperta l'idea? Questo bisognerebbe chiederlo agli organizzatori del Giro, però certo questo legame con gli Stati Uniti c'è e io sono contenta che sia possibile parlare qua a New York di Giro d'Italia e di ciclismo italiano, anche perché quest'anno ci saranno i campionati mondiali di ciclismo a Firenze e speriamo tutti che ci sarà una grande partecipazione da parte americana, di interesse non solo partecipare per coloro che corrono, ma partecipare per vedere, per andare in giro per l'Italia e vedere che cosa l'Italia produce. Questo è anche il senso di aver inserito questa bellissima manifestazione nell'ambito dell'anno della cultura italiana negli Stati Uniti, perché c'è uno stretto legame fra arte e cultura, è un legame che rafforza anche i legami di amicizia che già esistono fra gli Stati Uniti, che sono degli amanti del ciclismo e che fra l'altro già partecipano con delle cose organizzate negli Stati Uniti a delle biciclettate, chiamiamole così, che si svolgono in Italia e che hanno anche un grande successo. Beh, allora, grande giro, come avete visto, un evento straordinario a New York con questi oltre 30.000 corridori in bicicletta, ma veramente la ciliegina sulla torta verrà riservo nel finale, il gran finale, perché in testa, insieme al console, è partito Gianni Bugno. E Gianni Bugno è con noi ai microfoni di America 24. Buongiorno Bugno. Buongiorno anche a voi. Allora, beh, Bugno intanto ricordiamolo, ma insomma, campione del mondo su strada 91, 92, 1990, Giro d'Italia, ha vinto il Giro d'Italia, maglia rosa, e dunque in parte l'ha un po' indossata di nuovo questa maglia rosa, era una mezza maglia rosa quella che aveva domenica. Ma sicuramente sì, perché è stata una grande festa di gente, di pubblico, di affezionati al ciclismo, è stata una grande passeggiata, non è stata una corsa e quindi questo mi ha stimolato anche a partecipare sullo stadio di New York con una moltitudine di gente così, è sempre una grandissima emozione. Ecco, ma com'è stato andare in bicicletta a New York in una passeggiata barra corsa di questo genere? Lei era già stato in bicicletta in America? No, quindi è stata per me una novità andare in bicicletta e poi passeggiare, che poi l'importante è questo, cioè la bicicletta è un mezzo di trasporto ma anche un mezzo di passeggio. Poterlo fare in una città come New York, caotica, col traffico e tutto quanto, è una cosa che altre città non hanno, e quindi una cosa unica, rara, anzi unica, perché non ho mai visto una cosa del genere. Ecco, l'America con questa sua passione per il ciclismo poi a un certo punto ha prodotto questo grande campione che era Lance Armstrong, sembrava aver infranto ogni record. Poi la grande delusione per il doping. Ecco, qual è una sua osservazione sulla caduta di questo campione? È stato un grande campione, purtroppo è successo quello che non doveva succedere e questa è la prova che il ciclismo lotta contro il doping, che non è una piaga del ciclismo, ma una piaga di tutto lo sport.